Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 18 aprile 2015. All'Expo si fanno le prove della città del futuro. La Milano del futuro nasce a Rho. L'Expo, che si sta per inaugurare, dovrebbe portare in dote alla città ospitante e agli altri centri del paese non solo una grande opportunità di visibilità internazionale, ma anche la verifica sul campo di diverse soluzioni che gli attori coinvolti propongono tra i padiglioni dell'esposizione. Dalle innovazioni per la mobilità sostenibile alla realtà aumentata, dalla telemedicina alle reti elettriche intelligenti, le diverse proposte tecnologiche sperimentate negli spazi della fiera saranno valutate con attenzione nel loro impatto effettivo. Una sorta di prova generale per la progettazione delle città del futuro, a partire proprio da Milano. Fin qui la notizia del 18 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Carlo Ratti è un architetto torinese che al MIT di Boston ha fondato il Sensible City Lab ed è considerato uno dei massimi esperti al mondo sulle città intelligenti. A Londra, all'ultima edizione di EcoBuild, massimo evento mondiale sull'edilizia sostenibile, è stato uno dei protagonisti. Questa sera sarà a Milano, alla Mediateca Santa Teresa, per Meet the Media Guru. Lo abbiamo intervistato. Concetto di Smart City effettivamente viene usato in accezioni diverse, oggi viene usato molto spesso, viene usato sia in Italia che a livello europeo con i nuovi progetti che sono stati lanciati nell'ultimo anno. Parte tutto comunque da un aspetto molto concreto e abbastanza semplice, il fatto che grazie all'elettronica, alla tecnologia, sta cambiando il modo di capire e di vivere la città. I temi della città intelligente riguardano poi tutti gli aspetti della nostra vita, ad esempio noi a Singapore stiamo lavorando molto sul traffico, mentre a Seattle abbiamo lavorato sui rifiuti, mentre a Rio de Janeiro stiamo lavorando con la Banca Mondiale invece sulle comunicazioni tra i cittadini. Quindi diciamo alla fine gli aspetti della città intelligente toccano poi tutti gli aspetti della nostra vita. Per quanto riguarda Milano in particolare, io credo che sia molto interessante usare proprio l'area dell'Expo come spazio di sperimentazione sia all'interno dei temi che sono quelli dell'Expo, quindi dei temi dell'alimentazione, del cibo, del Energy for the Planet, ma anche di sperimentazione proprio come dell'area dell'Expo come una microcittà, e da queste sperimentazioni poi trasferire delle lezioni interessanti su Milano, ma anche più in generale sulla regione e sull'intero paese. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.